1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo dei referendum che la Lega sta portando avanti. In particolare ci concentreremo su due referendum, quelli sull'immigrazione, no? Uno che vuole ripristinare il reato di clandestinità, ieri è stato firmato anche da Forza Italia, e uno che vuole impedire i concorsi pubblici agli extracomunitari, limitarli agli italiani. C'è anche il referendum per ripristinare la prostituzione, renderla legale, il referendum per abolire le prefetture, insomma li citeremo, poi ci concentreremo ovviamente su un paio di questi, e lo faremo con Nicola Molteni, onorevole della Lega, e così come sarà nostro ospite l'onorevole del PD Khalid Shaukhi. Questo dalle 8:15. Intanto andiamo a sfogliare i giornali. In questo venerdì 30 maggio i titoli, il Sole 24 Ore apre così: costruire un'Italia nuova priorità, crescita e lavoro, e l'Assemblea di Confindustria, sono le parole del presidente Giorgio Squinzi. Anche per la Stampa, Confindustria a Renzi, ai voti, non deluda. In qualche modo sul Messaggero c'è un titolo di prima pagina che suona già come una prima risposta, perché è un'anticipazione del Messaggero: un decreto taglia burocrazia, arriva Italia semplice, forse verrà chiamato così, norme semplificate per imprese e servizi, 2-3 scadenze fiscali. Poi la politica, e ancora il Movimento 5 Stelle e le polemiche dopo il voto europeo. Al centro dei giornali, il Corriere della Sera: accuse e sospetti tra i 5 Stelle. Per Repubblica invece: così abbiamo perso, i 5 Stelle contro Grillo, Renzi campierò il PD. Per il Fatto Quotidiano: flop e Farage, il dossier anti-Grillo spacca il Movimento 5 Stelle. Per l'Unità: riforme e lavoro entro l'estate, questo è il titolo di prima pagina. Mentre Libero: i volti nuovi di Forza Italia, anche il centrodestra in grave difficoltà dopo le elezioni. Questi alcuni dei titoli, cito anche Il Giornale: Renzi e Alfano liberano migliaia di spacciatori, questo è il titolo di prima pagina, perché è la prima notizia dalla quale voglio partire. C'è questa notizia che viene, ormai l'abbiamo sentita anche nel giornale radio, è stata approfondita da tutti i giornali, anche dal Sole 24 Ore, a pagina 23, piccolo spaccio, pene da ridurre. Donatella Stasio racconta come 4-5 mila persone potrebbero lasciare le carceri italiane tra poco. Perché la Cassazione ha stabilito che dopo la bocciatura parziale della Fini-Giovanardi, la legge sulle droghe, va fatto il ricalcolo per le persone che hanno fatto un spaccio leggero, ovviamente di poche sostanze, e che potrebbero dunque uscire prima il ricalcolo delle pene. Donatella Stasio, come detto, spiega tutto a pagina 23 con la consueta chiarezza, e scrive: una boccata d'ossigeno per il carcere arriva dalle sezioni unite della Cassazione, che ieri hanno aperto la strada al ricalcolo, al ribasso delle condanne per spaccio di droghe leggere, divenute definitive quando era in vigore la legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale lo scorso febbraio. I numeri delle potenziali scarcerazioni sono ancora ballerini, si parla di 4-5 mila detenuti, anche se a febbraio, quando la Consulta bocciò la Fini-Giovanardi, circolò una stima di 10 mila persone. Certo, le uscite faranno scendere nei prossimi mesi la popolazione carceraria sotto quota 59 mila, consentendo al governo di affrontare con più serenità il verdetto di Strasburgo. Perché ricordiamo, pende, e arriverà il verdetto settimana prossima, credo, proprio da Strasburgo, il rischio di multe pesantissime all'Italia per le condizioni dei carcerati. Come detto, il giornale la vede così: governo e giudici liberano migliaia di spacciatori. Le polemiche ovviamente ci sono. Sul Corriere della Sera viene intervistato a pagina 2 Riccardo Gatti, che è il responsabile del Dipartimento Antidroga dell'ASLA di Milano e anche uno dei massimi esperti antidroga In Italia decisione corretta, il carcere non risolve, dice Agiusi Fasano. La questione è che si sentono solo dibattiti vecchi, dice Gatti. Non è un'offesa, è la verità. Siamo ancora una volta a centrare il ragionamento sulle singole sostanze o sul fatto che sono classificabili in un modo piuttosto che in altro. Ma non è questo il punto e non è nemmeno il numero dei detenuti che adesso usciranno o no dal carcere. Io chiedo, era giusto tenerli in carcere? Secondo me no, sarebbe stato meglio agire per evitare il problema del carcere, con una discussione parlamentare seria, approfondita, che porti a scelte congruenti col periodo storico in cui viviamo. Il nostro impianto legislativo sulle droghe risale al 1975, quando eravamo in un altro mondo rispetto a queste cose. Oggi l'abuso di sostanze ha confini che non sono ben più distinguibili. Abbiamo droghe vere e proprie e quelle che ne hanno quelle che ne hanno l'effetto senza essere catalogate come tali. Ci sono i farmaci, le sostanze vendute al supermercato. Insomma, chiede il Corriere, una continua rincorsa a stabilire se sono lecite oppure no. Esatto. E teniamo presente che questo comporta restrizione all'accessibilità dei farmaci, col risultato che c'è gente che muore colpita da fuoco amico, per così dire, non dall'industria del crimine. Una volta i consumi di droghe aderivano agli stili di vita, avevano tempi generazionali, adesso il confine è più utilitaristico. Prendo quello che c'è per ottenere l'effetto che voglio. E ovviamente pareri favorevoli, pareri contrari. Don Mazzi dice il carcere non è la soluzione, ma l'uso resta comunque grave. Viene intervistato dalla Stampa. C'è chi, come il rapper italiano Frankie Energy, sempre sulla Stampa, dice basta con le ipocrisie, fa più male l'alcol, eppure è legale. La decisione della Cassazione la vedo più che positiva, perché l'ideale sarebbe arrivare a legalizzare le droghe, perché è ora di finirla con le ipocrisie che paragonano le droghe leggere a quelle pesanti. Vabbè, il dibattito sia un po' stantio del solito che si ripropone in questa occasione. Certo, il dato da vedere è quante persone usciranno dal carcere. Un altro dibattito che si è aperto ieri, noi lo abbiamo già fatto per la verità qualche tempo fa, un mesetto fa circa, forse anche meno, ed è il titolo di apertura di Avvenire, ma è ovunque sui giornali, è la vicenda del divorzio breve. Ieri il primo sì alla Camera. Ci vorrà, in caso di nessuna lite, in caso di accordo ovviamente tra i coniugi, potrà scendere, se viene approvata in via definitiva anche al Senato, da 3 anni a 1 anno lo spazio della separazione prima di chiedere il divorzio. Avvenire titola così in maniera allarmata sul divorzio breve, una fretta rischiosa. Questo è il titolo di prima pagina, c'è anche l'editoriale di Carlo Cardia, dal titolo I veri diritti della famiglia. Il primo effetto che può prodursi con l'accelerazione dei tempi di scioglimento del vincolo è provocare un vuoto nella psicologia e nella cultura dei più giovani, con la caduta di senso dell'impegno che si sta per assumere. Un impegno che appare effimero, caduco, risolubile in tempi brevissimi, con tutele economiche e giuridiche assai limitate. Altri effetti si avranno sulla tutela dei figli, ritenuti quasi irrilevanti ai fini del divorzio, sugli orientamenti della giurisprudenza che sarà indotta a ritenere il segmento di esperienza matrimoniale vissuta alla stregua di un incidente di percorso che lascerà poche tracce nella vita delle persone coinvolte. Ovviamente questa è l'impostazione del quotidiano dei Vescovi, ben diversa l'impostazione di altri giornali che dicono bene, finalmente anche in Italia si può fare. Repubblica, per esempio, racconta il calvario di una divorziata, pagina 13, che dice: un grande giorno a Vera Schiavazzi. Per divorziare e risposarmi ci ho messo quasi 10 anni. Adesso a nessuno toccherà il mio calvario, dice così Daniela. Viene citata solo per nome. Dal 2005 ha deciso di separarsi. E il 12 maggio, una manciata di giorni fa, si è risposata. Anzi, Daniela Caon, torinese, impiegata, 44 anni. Quasi una vita ho passato, perché vivi come in una gabbia invisibile e non riesci a liberarti. Questa è la testimonianza di una donna. Su Repubblica c'è la polemica anche politica. Chi si è speso contro questo divorzio breve è Paola Binetti, deputata, che intervistata da Repubblica, da Concetto Vecchio, a pagina 12 e 13, dice: dico no come Fanfani, questa legge serve solo a sfasciare le famiglie, naturalmente ho votato no. Ma lei è contraria al divorzio? Sì, salvo pochi casi drammatici, così Paola Binetti. Ma perché lo chiama divorzio lampo? Ma le pare possibile chiudere un matrimonio in 6 mesi? Dico 6 mesi, bruciando tutti i tempi di riflessione, di rielaborazione. La fine di un matrimonio è un fallimento, una sofferenza, una sconfitta, e questa norma non prevede alcuna misura di prevenzione. Si prevene rendendo le persone più consapevoli sulle proprie responsabilità. Ma questa legge, chiede Repubblica a Paola Binetti, non semplifica finalmente la vita a milioni di persone? E io invece penso ai milioni di italiani a cui la complica, i bambini, il coniuge che non è d'accordo, la parte debole della famiglia. C'è sempre una parte debole. Lei forse non immagina quanti padri separati finiscono alla Caritas, nuovi poveri. Non capisco questo cosa c'entri con il divorzio breve o veloce. Comunque, insomma, conclude Paola Binetti, insomma, lei ragiona un po' come Fanfani nel 74. Io la penso come Paola Binetti, deputata dell'UDC nel 2014. Vabbè, quindi non è che ha detto dico no come Fanfani, come dice il titolo, ma spesso il titolo non rispecchia poi il testo delle interviste, che sono sempre da leggere. Allora ci fermiamo e ripartiamo da che cosa? Dalla politica. E non solo, ovviamente, l'assemblea di Confindustria, con il presidente di Confindustria Squinzi, che dice ora il mandato popolare è forte per Renzi, lo traduca in riforme. E sul Messaggero c'è scritto in anticipazione: una riforma, la taglia burocrazia, sarebbe già pronta tra poco. 24 mattino. E allora siamo qui alle 8, sì, vabbè, buonanotte, alle 7:34 minuti, cari ascoltatori. Come detto ieri, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi all'assemblea degli industriali ha parlato di questa Italia nuova da costruire, con priorità da dare alla crescita e al lavoro, come racconta nel resoconto Nicoletta Picchio. Sono a pagina 2 del Sole 24 Ore. È arrivato il momento di costruire un'Italia nuova, ha detto Squinzi, di superare vecchie logiche, decidendo ciò che non abbiamo avuto il coraggio di fare. In quasi un'ora di discorso, spiega Squinzi, il governo, ha detto, può agire con determinazione col vento della legittimazione popolare alle spalle, e ha elencato poi i mali dell'Italia, a partire dalla burocrazia, denunciando la pressione fiscale al 68,5% del prelievo sugli utili, per cui nelle imprese si lavora fino alla prima decade di settembre per pagare le tasse. Queste le parole di Squinzi, che poi ha sollecitato i sindacati al confronto sui contratti, favorendo contrattazione aziendale virtuose, e sul mercato del lavoro col messaggio diretto che è questo il tempo delle eterne liturgie trascorso, dal sindacato mi aspetto uno sforzo di innovazione. C'è da dire che sul Messaggero oggi, in prima pagina, nel titolo di prima pagina, c'è in qualche modo già una risposta, se volete, a questo appello di Squinzi. Arriva Italia semplice. È un'anticipazione del Messaggero. È un pacchetto di provvedimenti allo studio del governo definito taglia burocrazia. Nome a parte, che come verrà battezzato, ecco, viene definito così Italia Semplice, ma il nome forse non sarà questo. Tutti i dettagli sono a pagina 5 con Andrea Bassi, imprese e servizi, così il taglia burocrazia. Vediamo di che si tratta. Come verrà battezzato non è stato ancora deciso, l'idea sarebbe proprio quello di chiamarlo Italia Semplice oppure taglia burocrazia. Nome a parte, Renzi ha deciso di innestare la quarta sul provvedimento, il pacchetto di provvedimenti con i quali ha intenzione di rivoluzionare la pubblica amministrazione. Il tema non sarà solo quello degli statali, che anzi potrebbero essere oggetto di una legge delega, ma quello su cui il governo ha intenzione di fare in fretta sono le semplificazioni amministrative, aprire le sbarre della gabbia descritta ieri dal presidente di Confindustria Squinzi durante l'assise degli industriali. Le novità non saranno poche. Tra queste ci sono lo switch off della carta. Oh, la carta costa. Eccolo qua, dal 2016 scomparirà ogni forma di comunicazione cartacea tra i cittadini e le imprese da un lato e la pubblica amministrazione dall'altro. Ogni cittadino avrà un PIN con il quale interagire con la pubblica amministrazione. Il governo punterà molto sul sviluppo del digitale, l'importante ovviamente è diffondere la banda ultralarga sul territorio nazionale. Poi il capitolo dedicato alle imprese sarà ampio, l'idea è quella di eliminare ogni richiesta di documentazione certificato di cui il sistema pubblico disponga o possa disporre. Altro punto centrale dell'azione taglia burocrazia sarà la standardizzazione delle procedure, fare insomma in modo che per lo stesso procedimento in materia di edilizia ambientale d'impresa le procedure siano le stesse o molto simili su tutto il territorio. E ancora misure che andranno a favore delle imprese del cittadino, alcune saranno recuperate direttamente dal rapporto sulle 100 procedure più complesse emerse dalla consultazione pubblica che si è conclusa ad aprile. Si starebbe valutando anche la possibilità di accogliere altri suggerimenti, soprattutto sulle semplificazioni fiscali. Insomma, per il Messaggero, Matteo Renzi accelera su questo fronte, il fronte taglia burocrazia. Oh, poi c'è la politica. La politica, ci sono ancora il Movimento 5 Stelle in primo piano. Le polemiche non finiscono. Ieri un documento che doveva rimanere riservato da parte dello staff di comunicazione per i parlamentari è stato spifferato, finisce sulla stampa creando malumore o, secondo il Fatto Quotidiano, una vera e propria spaccatura all'interno del movimento. Lo staff processa strategia e slogan, un altro terremoto tra i 5 Stelle. Pagina 11 del Corriere, leggo il titolo. In questo documento c'è scritta un'analisi un po' impietosa dei fallimenti di questa campagna elettorale. Gli italiani in questa fase difficile hanno dimostrato di aver bisogno di affidarsi a un uomo forte, fattore che ciclicamente torna nella storia da Mussolini a Berlusconi, e hanno bisogno di serenità, si legge in questa analisi. Renzi ha trasmesso serenità costruttiva, mentre noi abbiamo trasmesso energia, sì, ma ansiosa e fatta percepire dai media e dagli altri competitor come distruttiva. E ancora si legge: i parlamentari del Movimento 5 Stelle non sono ancora percepiti come affidabili, si ritengono poco concreti, mancano di umiltà, a volte sono percepiti come saccenti. E beh, insomma, questo documento appena uscito ha scatenato le ire di Casaleggio e Grillo. Questo secondo i giornali hanno definito autolesionistico questo documento. Ma la polemica è anche legata all'alleanza con Nigel Farage, il leader di questa compagine UKIP, che ha ottenuto il pieno dei voti in Gran Bretagna. Bisogna fare le alleanze in Europa, e questa alleanza, che peraltro verrà sottoposta, credo, alla rete, non è piaciuta molto ad alcuni del movimento, anche perché Nigel Farage è un personaggio che ne ha dette di tutti i colori. È, secondo l'Unità, donne inferiori, gay, anormali, alcune delle idee del partito di Farage. Addirittura Repubblica riepiloga a pagina 3 tutto l'elenco delle frasi un po' più clamorose dette da alcuni esponenti del UKIP. Per esempio, ne volete alcune frasi, eh? Certi omosessuali preferiscono fare sesso con gli animali, Giulia Gasper dello UKIP, poi si è dimessa. Sempre la stessa Giulia Gasper ha detto anche: il legame tra omosessualità e pedofilia è così evidente che non vale neanche la pena di discuterne. E ancora, Nigel Farage ha detto: non vorrei avere dei rumeni come vicini di casa. E ancora Douglas Dennis, sempre dello UKIP: ciò che mi disgusta degli omosessuali è la loro pretesa di essere considerati normali. Insomma, la critica è: ma con chi ci alleiamo in Europa, caro Beppe Grillo? Questa è la critica che fanno alcuni del Movimento 5 Stelle. Mentre invece c'è ancora la polemica su una eurodeputata, tale Giulia Moi. Ieri ne parlavo con lei, che dice: ho trovato una molecola che combatte la leucemia. Oggi La Stampa si concentra su questa storia, pagina 5. Giulia, europarlamentare col curriculum sospetto tra farmaci, PhD, premi, un PhD a Londra. E soprattutto questa frase nel curriculum: ha trovato una molecola scoperta nel 2005, visto che è biologa, per combattere la leucemia. Forse non c'è nulla di vero, invece è tutto tutto verissimo, si accalora il portavoce che promette per oggi un post di definitivo chiarimento sul blog di Beppe Grillo. Sta di fatto che ci sono le polemiche su questa biologa quarantenne neoeletta al Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. Insomma, un po' di problemi all'interno del Movimento 5 Stelle, ma chi non ne ha come Berlusconi? Chi non ne ha come Mauro Meazza, che saluto del Sole 24 Ore? Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. Come me? Come me? Ho dei problemi o non ho dei problemi, ma non è importante. No, oggi sono particolarmente sereno perché si chiude la settimana, sì, la settimana decisiva. 56esima, certo. No, non parlo del tuo conteggio, parlo della settimana decisiva per le regole di versamento della TASI. Quindi, che non sappiamo ancora bene, anzi c'è una bella vignetta di Domenico Rosa oggi sul Sole 24 Ore, tra le tante cose che sono. Adesso la facciamo vedere, aspetta, clic, eccolo. Ah, ecco, sì, ma se puoi mostrarla, ti ringrazio. Ecco. No, dobbiamo scoprire, vedremo se oggi sapremo quali sono le regole effettivamente, le scadenze di versamento della TASI, ma ne parliamo naturalmente sul Sole 24 Ore, dove parliamo anche dell'aumento di tassazione che si prospetta per i fondi pensione, è uno 0,5% in più, si sta discutendo attorno al decreto IRPEF, il bonus IRPEF, il famoso decreto degli 80 euro o dei famosi 80 euro, come preferite, e ne riferiamo appunto oggi sul Sole 24 Ore. Ne scrivono Marco Bellinazzi e Federica Micali, tutti particolari in cronaca. Volevo dirti, hai studiato, perché lunedì sempre danno le pagelle, ecco. La commissione ci dà le pagelle sulle nostre riforme. Ottimo. Ecco, non vorremmo fare cattive figure in Europa, visto che... Ma si basano sulle mie frasi? Siamo spacciati. Sai, questi possono guardare un po' di tutto, noi siamo sempre deboli in riforme, come quelli che erano deboli in matematica, noi siamo deboli in riforme, speriamo che, come dire, chiudano un po' un occhio, ci aiutino, non so se possiamo mandare i genitori a parlare con la commissione così all'ultimo momento e sperare, vedremo, lunedì vediamo. Vabbè. Intanto ti voglio dire che hanno deciso dove verrà sistemata, smantellata la Concordia, che sarà a Genova, lo riferiamo oggi su Sole 24 Ore. Il 20 di luglio è la data prevista, qui davvero è un po' più difficile fare previsioni al giorno, però il 20 luglio è la data prevista per cominciare a muovere con una lunga crociera, ultima crociera, il relitto, e trasferirlo a Genova, dove sarà smantellato. Lo riferiamo sul Sole 24 Ore, ma non nelle pagine di Norme e Tributi, in quelle di Imprese e Territori, nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Ottimo. E poi questo è molto altro naturalmente, ma il tempo è tiranno, la settimana, il tempo stringe, la settimana è decisiva, e che altra frase fatta posso dire prima di dire la... Non lo so, l'Inter è forte, puoi dire anche questo. Questo sempre, naturalmente, sempre forza Inter e forza Alessandro Milan, ecco, potrei dire questo. Vabbè. E non dico altro, solo una parola oramai nota. Traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Perché da qui nacquero tutte le nostre siglette. Grazie caro ascoltatore. Il panettiere dell'informazione vi informa che anche nel centrodestra c'è molto tumulto. Intanto ieri Forza Italia con Renato Brunetta è andata a firmare 2 dei 6 referendum promossi dalla Lega. Lo cito solo così per dire che poi ne parleremo alle 8:15 di questi referendum. In particolare ci concentreremo su quelli legati all'immigrazione. Uno dei 2 firmati da Forza Italia, uno è su abrogare la legge Fornero, uno è sulla reintroduzione del reato di clandestinità. Comunque, insomma, Forza Italia è un po' nel panico. Sapete che Berlusconi ha lanciato questa idea dei soldi, la mancanza di fondi, anche se oggi il Corriere della Sera con Tommaso Labate va un po' a spulciare i conti, a dire questa cifra. Berlusconi in 20 anni ha dato 98 milioni di euro alle casse di Forza Italia. Sarebbero 98 milioni, 95 se si considera che 3 sono catalogati alla voce prestito, 2 volte il costo di Kakà dei bei tempi andati, oppure quasi quanto l'acquisto di una stella del calcio mondiale come Gareth Bale. 98 milioni, tanto al momento è costata negli ultimi 20 anni a Silvio Berlusconi l'avventura di Forza Italia. Tanto, insomma, ammonterebbe la cifra che l'ex premier ha anticipato di tasca sua per la creatura partitica e che non ha ancora riavuto indietro. Ovviamente l'abate scrive: impossibile fare un conto al centesimo, ma poi nell'articolo sono spulciate tutte le varie donazioni, fideiussioni, prestiti per arrivare appunto a questa cifra di 98 milioni. Libero invece fa da giorni una campagna per dire come rinnovare il centrodestra dopo il flop alle ultime elezioni. Ebbene, oggi vengono proposti i volti nuovi del centrodestra, la pagina 2-3. Da Mirko Mastrorosa, 33 anni, a Federica De Benedetto, 29, Nicolò Bufalini, 22, Ilenia Citino, 26, Giorgio Silli, 36, Martina Sassoli, 31, se volete conoscerli anche con interviste come riformerebbero e rilancerebbero il centrodestra, sono intervistate sul Libero a pagina 2 e 3. Tra l'altro un Berlusconi sempre arrabbiato che dice, secondo un retroscena di Repubblica firmato da Carmelo Lo Papa, a pagina 6, ci sono dei traditori come Alfano che vogliono esautorarmi. Ce l'ha soprattutto con Fitto, secondo Repubblica. Fitto, forte delle sue preferenze conquistate le europee, dice di lui Berlusconi: la sua, quella di Fitto, insomma, è una vera e propria aggressione. Lui e gli altri si sono comportati come squali pronti a colpire la preda nel momento di maggiore debolezza. Vogliono introdurre primarie per decidere tutte le cariche. A quel punto cosa faccio io? Ratifico? La verità è che mi vogliono esautorare nella maniera più subdola. Insomma, scrive Repubblica, è panico da ghigliottina per il sovrano di Forza Italia. A proposito di Forza Italia, ci sarebbero dal carcere di Regina Coeli le prime ammissioni di Claudio Scajola. Scajola fece pedinare Lady Matacena. L'ex ministro disse: le procurai un lavoro nel Popolo della Libertà. Secondo Carlo Macri e Fiorenza Sarzanini, sono sul Corriere della Sera, pagina 21, è vero, ha detto Scajola, mi adoperai per Amedeo Matacena per fargli avere l'asilo politico a Beirut. L'ho fatto perché era un amico e un parlamentare di Forza Italia. Mi comportavo con lui come fossi il suo avvocato. Risponde così il 9 maggio alle domande dei PM di Reggio Calabria, Claudio Scajola. L'accusa di aver favorito Matacena, dice anche Scajola, aiutai la moglie di Matacena facendola lavorare per il tesoriere del PDL, Ignazio Abrignani, il quale a Repubblica conferma. È vero, in effetti per alcuni mesi l'ho fatto un contratto, le ho dato una mano, mi occupo di turismo, le feci questo favore, ma parliamo di un contrattino. L'assunsi come deputato, io sono presidente dell'osservatorio parlamentare per il turismo, pagavo io un contrattino che mi sono accollato, nulla di trascendentale, 1.000 euro al mese. Sono una persona corretta e sono stato con Scajola per 15 anni, se sono amico di una persona lo sono nella buona e nella cattiva sorte. Per cui ho fatto un favore a Scajola, se mi chiama un amico e mi dice c'è una persona in difficoltà, dai aiutiamola, manco sapevo bene chi era, io lo faccio. A sue spese l'ha fatto, mi potrò permettere di caricarmi 1.000 euro al mese. Il contrattino, come lo chiama Brignani, è durato 6 mesi, da settembre scorso a marzo 2014. Ma quindi, mentre Matacena era in piena latitanza, sì, ma onestamente non sapevo di questo sfondo. Non sapevo di questo sfondo. Ma perché pagava sua moglie per non farle fare nulla? Doveva fare qualcosina. Parliamo di contrattini a progetto. Si potrà aiutare una persona in difficoltà a proprie spese? Insomma, qualcosina, contrattini per la moglie di Matacena, parla così Ignazio Abrignani, onorevole. Va bene, siamo al momento conclusivo e quando siamo al momento conclusivo arriva il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Come sempre a mio insindacabile giudizio vince anche oggi, ormai padroneggia in testa la classifica, Il Giornale con Nino Materi, che regala una pagina intera per raccontare di Jackie Kennedy Onassis. Sfrenata e libertina, ecco la sua faccia nascosta. Si portò a letto tutta la famiglia e mezza Hollywood. E che è? Ma dai, qualche nome: Warren Beatty, Peter Lawford, Paul Newman, Gregory Peck, Frank Sinatra, William Holden, Marlon Brando, e ci fermiamo qui solo per ragioni di spazio, appunto. Fermiamoci, che la carta costa. Dai, su, amici del giornale, arriva il premio, mi sa, eh. Forza, forza, giornale radio.